Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Dal 19 febbraio al 17 marzo del 1848. Buona giornata, ancora una puntata speciale del Gazzettino del Risorgimento dedicata alle rivolte che stanno attraversando l'Europa. La lotta indipendentista della Sicilia non si è ancora conclusa e anzi i palermitani si preparano ad elezioni, mentre Ferdinando II sembra aver capito che dovrà mettere insieme un vasto esercito per poter reprimere i moti. I tempi si allungano dunque, mentre ci arriva ora la notizia che Venezia si è ribellata agli austriaci e ci sono stati scontri in piazza San Marco, i detenuti politici sono stati liberati e tra loro Daniele Manin. Tensioni si registrano anche a Milano, a pesare quel che sta succedendo a Parigi, ma soprattutto a Vienna. Metternich si è volatilizzato, si è dimesso ed è fuggito via da Vienna insieme alla sua terza moglie. La vera notizia è questa, perché in realtà l'imperatore e l'esercito hanno saldamente in mano la città, nonostante studenti e popolo per 3 giorni abbiano affollato piazze e strade, assediato la sede del governo, dato fuoco ai lampioni a gas, saccheggiato i negozi e soprattutto chiesto costituzione e riforme liberali. Ferdinando d'Asburgo ha concesso loro la testa del custode della restaurazione, la libertà di stampa e una promessa costituzionale. Ma altri pezzi dell'impero si stanno sollevando. L'Ungheria innanzitutto, dove i sentimenti nazionalisti si sono risvegliati, mentre in Boemia, Moravia e Slovacchia sono esplose rivolte simili. E poi ovviamente c'è Parigi. Ancora una volta la Francia è stata, si è detto senza valutazioni di merito, punta avanzata del cambiamento politico. Quando il re Luigi Filippo ha deciso di proibire un banchetto che sarebbe diventato momento di discussione politica previsto per il 22 febbraio, il popolo ha deciso di scendere in piazza lo stesso. Sulle strade si sono riversati gli studenti, a loro si è unita la piccola borghesia. La rivolta ha fatto irruzione nelle stanze reali e si è dato fuoco al trono in piazza della Bastiglia. Il che fa immaginare, ed è su questo che i rivoluzionari stanno ragionando dopo l'abdicazione del re, che a breve si formerà una seconda Repubblica francese. In città si registra un fermento politico senza pari. Da queste parti è stato avvistato anche il rivoluzionario italiano Giuseppe Mazzini. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto a Roma Pio IX ha dovuto cedere alle pressioni popolari e ha concesso una costituzione, mentre nel Regno di Sardegna è entrato in vigore lo statuto promulgato da Carlo Alberto ed è in carica il nuovo governo, guidato da Cesare Balbo. Nello statuto si garantisce la libertà individuale, si prevede l'inviolabilità del domicilio e delle proprietà, si concede la libertà di stampa e si dichiarano tollerate tutte le religioni, compresa la valdese e l'ebraica. È tutto, sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano, visitate il nostro blog e la nostra pagina Facebook, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.